questo martedì 7 febbraio. Le aperture e molti quotidiani si concentrano sulla vicenda freddo, gelo più che altro, e il gas che potrebbe mancare. Gas scatta il piano d'emergenza, così titola Il Sole 24 Ore in prima pagina. Per il Corriere della Sera, Italia al gelo, allarme per il gas. Per Repubblica, Italia al gelo, emergenza gas. La Stampa, gas piano d'emergenza al via. Il Messaggero, scatta l'emergenza gas. Avvenire, un freddo a tutto gas. Il Secolo XIX, gas, il piano d'emergenza. Insomma, mi sembra di leggere lo stesso titolo, ma sono quotidiani tutti diversi. Per vedere titoli di apertura diversi, Il Fatto Quotidiano, Il Sacco di Roma. Per l'Unità, posto fisso, sulle battute del governo sul posto fisso. Libero, sì al patto col diavolo, c'è un disegno di Berlusconi e Bersani a letto che si tengono la mano. È il tema politico del possibilità di fare un patto politico tra PDL e PD. Il Giornale, è stato Tremonti a dare il colpo di grazia a Silvio. Il Giornale presenta quello che viene definita una lettera del Quirinale, quindi un documento ufficiale che dice Berlusconi cadde per colpa di Tremonti. Default bianco invece è il titolo del Manifesto in prima pagina, con un uomo solitario che spala un muro di neve. Ma io voglio partire con due notizie, non sono due belle notizie, sono due notizie che provengono dalla cronaca nera. La prima, vi ricordate, un terribile omicidio, un gesto di follia, e bisogna usare questa parola perché così ha deciso il giudice che avvenne a Milano qualche anno fa, quando un ucraino, ex pugile, Oleg Fedchenko, andò in strada e senza apparente motivo uccise la prima persona, una donna che incrociò, la filippina Emlu Arvescu, che incrociò, la prima che incrociò in Viale Abruzzi a Milano, spinto dalla follia, la uccise a pugni. Ebbene, la notizia, è stato assolto l'ex pugile che uccise una passante. Questo è il titolo del Corriere della Sera, pagina 27, ma anche Repubblica. Massacrò una donna a pugni, niente carcere, è libero. Massacrò a pugni una donna, i giudici lo assolvono, è matto. Non è proprio un'assoluzione nel senso che è libero di andarsene per la strada. Questo no, ma è stato giudicato incapace di intendere e volere dal giudice per udienza preliminare, e per questo motivo la legge prevede la non punibilità e dunque non può essere condannato. Per lui è stato disposto 5 anni di manicomio giudiziario, perché ovviamente è una persona considerata molto pericolosa. Per il giudice però era fuori di sé al momento dell'omicidio. Giuseppe Guastella ne parla, pagina 27. Le voci del bene e del male non rimbombano più nella sua testa, anche diavoli e mostri sono spariti, cancellati dai farmaci che lo tengono buono, ma Oleg Fedchenko non è guarito. Una perizia certifica che era totalmente incapace di intendere e volere quando un anno e mezzo fa uccise a pugni la prima donna che incontrò per strada. Per lui dunque resterà nel manicomio giudiziario di Reggio Emilia perché è pericoloso per la società, quella che non ha colto i segni della sua follia e ora si disinteressa dei familiari della sua vittima. Familiari che ovviamente ora dicono: siamo stati traditi 2 volte, non è possibile che una persona così non possa scontare una pena in carcere. I familiari della donna si sentono totalmente abbandonati. Troppo semplice cavarsela così, dicono. Beh, tutte le volte che ci sono sentenze di questo tipo, cioè le assoluzioni per incapacità di intendere e di volere, certo si scatenano le polemiche. Certo, starà in manicomio solo 5 anni, almeno l'accusa aveva chiesto, in caso di incapacità di intendere e di volere, 15 anni di manicomio, invece starà 5 anni. La seconda notizia, sempre di cronaca giudiziaria, pagina 19 del Giornale, è questa. La firma di Luca Fazzo, terrorista arrestato dagli USA, liberato dai nostri PM. Adesso ne manca uno solo, scrive Luca Fazzo. Poi i 3 estremisti islamici consegnati all'Italia dagli Stati Uniti nel novembre 2009 saranno tutti liberi. Per primo era stato liberato Ben Mabrouk Adel, tunisino, già barbiere della moschea milanese di Viale Jenner, condannato dalla giustizia italiana per terrorismo internazionale, ma una pena assai blanda per ricompensarlo in qualche modo del periodo passato a Guantanamo, e subito era stato scarcerato. Ieri è stato scarcerato anche Riyad Nasri, tunisino anche lui, E la cosa più notevole è perché l'ultrà viene addirittura riabilitato. La Corte d'Assise d'Appello di Milano lo assolve, annullando la condanna a 6 anni che gli era stata inflitta in primo grado, ordinando la sua immediata liberazione. E dunque, se il verdetto venisse confermato in Cassazione, Nasri potrebbe anche chiedere allo Stato italiano un risarcimento danni per i 3 anni passati ingiustamente nelle celle italiane. Insomma, la vicenda, ricordate, di un paio d'anni fa, quando furono consegnati 3 considerati terroristi islamici all'Italia dagli Stati Uniti, Ben Mabrouk Adel, Riad Nasri e Moez Fezzani. Ebbene, 2 di loro di fatto sono liberi. 3 erano anche ricercati dalla Procura di Milano per terrorismo internazionale, erano stati chiamati in causa da un pentito. A nessuno dei tre veniva addebitato episodi di terrorismo programmati in Italia, ma tutti e 3 facevano parte a pieno titolo della struttura logistica del Jihad internazionale. Ebbene, il giornale oggi fa sapere anche il secondo è stato liberato. Terrorista arrestato dagli USA, liberato dai nostri PM. 24 mattino. Alle 7:34 minuti, allora, come detto, quasi tutti i giornali aprono sul gelo e sul fatto che il gas potrebbe cominciare a mancare nei prossimi giorni. Intanto quello che è scattato sicuramente è il piano di emergenza. Il Sole 24 Ore spiega che cosa significa a pagina 3. Intanto, in una giornata in cui il freddo ieri ha causato altre 7 vittime, sono ancora decine i comuni difficili da raggiungere, migliaia le utenze d'acqua e elettricità ancora da ripristinare, e aumenta la preoccupazione per che cosa? Per il calo delle forniture di gas in arrivo dalla Russia. Il ministro Passera dice che le riserve strategiche non sono intaccate, ma certo è stato fatto scattare il piano di emergenza gas, che prevede la possibilità di interrompere l'erogazione alle imprese, mentre le forniture alle famiglie saranno garantite anche con il concorso delle centrali a olio. E allora ecco il titolo a pagina 3: consumi record di gas e allarme, la domanda giornaliera è salita a 440 milioni di metri cubi. Sono partite dunque i tagli alle utenze industriali. La domanda che ci si pone è: presto rimarremo a corto di gas? In realtà, a far bene i conti, abbiamo parecchi giorni di relativa tranquillità. E dunque, anche nell'ipotesi peggiore, la Russia ha rassicurato con la certificazione dell'Unione Europea che la crisi delle forniture metanifere sta rientrando. Paolo Scaroni, numero uno dell'ENI, però ha acceso questo cerino fino a mercoledì, cioè domani l'Italia andrà avanti in piena sicurezza. Da sud, dall'Algeria, dagli oleodotti dell'Algeria, pompa il massimo, ma anche lì c'è qualche incognita legata all'insolito scenario glaciale che la sta martoriando. Certo, il tema, sempre solito, costante, un po' come le polemiche, lo scaricabarile, è la troppa dipendenza dell'Italia dall'energia che proviene dall'estero. Siamo al 90% circa di dipendenza energetica dall'estero, 88,4%, e tutte le volte c'è dunque la polemica: bisogna essere più indipendenti dal punto di vista dell'energia. Polemiche che poi rientrano, non si fa quasi nulla, e alla prossima polemica ci diamo appuntamento. Iena, a pagina 3 della Stampa, è il solito graffiante Iena: non possiamo nemmeno attaccarci alla canna del gas. Questo oggi Iena, per parlare di questo rischio emergenza che si può profilare in settimana. La situazione ovviamente rimane per diversi comuni ancora difficile, a dir poco, diversi comuni che sono isolati, diversi comuni dove c'è ancora tanta neve, e se non si toglie la neve si forma il ghiaccio sotto per il gelo che c'è, quindi è ancora peggio. E tra l'altro c'è questa, secondo me, incredibile vicenda che è emersa per la denuncia di vari primi cittadini, dunque sindaci, e che è questa. Oggi Repubblica, secondo me, giustamente fa una pagina. Vorrei su questo farvi riflettere. L'esercito in campo a pagamento. 600 euro al giorno per 10 spalatori. L'ira dei sindaci, e c'è chi rinuncia. Cioè, la vicenda è questa. Volete gli spalatori dell'esercito, cari sindaci che siete stati travolti da questi cumuli di neve per togliere, per pulire le vostre strade? Dovete pagare. Sono a pagamento. La prima denuncia è di Franco Corbucci, sindaco di Urbino. Neve alta 1,5 metri in città, 3 o 4 metri nel circondario. Dobbiamo arrivare nelle frazioni isolate per fornire il cibo, l'acqua, le medicine. Dice, certo, pagherò. Però questa faccenda è strana. 10 soldati con pala per una settimana, 3.000 euro. Una ruspa, 800 euro. Questo è il conto di chi, primo cittadino, ha fatto delle richieste all'esercito. Si è sentito dire all'inizio, guardate che non è gratis, eh? E poi si è fatto, in pratica, si è visto arrivare questo tariffario. Più salato il conto del comune di Ancona, che ha reclutato 14 sparatori del 28esimo reggimento di Pesaro, 17 militari e 6 spazzaneve. 100 euro per ogni soldato, immagino al giorno. Anche 900 euro per una grossa ruspa, 200 per un bobcat. Il sindaco Fiorello Gramillano si è impegnato a onorare, dice naturalmente faremo fronte agli accordi, ma non trovo giusto che in caso di calamità questa debba essere a carico della comunità colpita. Effettivamente anche Michele Serra ci fa un editoriale in prima pagina dal titolo Il prezzario, e ci si chiede, ma è giusto che debbano pagare? Intanto è giusto che si debba pagare l'esercito? Qualcuno può dire di sì, dopo, dal momento in cui non c'è più la leva obbligatoria e quindi anche l'esercito è a corto di soldi? Non si sa. Michele Serra fa notare, certo, è molto probabile che anche le forze armate, al netto dei miliardi di euro usati per acquistare i nuovi cacciabombardieri, debbano far quadrare i loro faticosi conti quotidiani. Muovere un camion pieno di soldati costa, si sa, però certo a me ha molto colpito questa vicenda, per cui i sindaci devono pagare per chiedere l'aiuto degli spalatori dell'esercito. Mentre sul Fatto Quotidiano c'è un duro attacco ad Alemanno per la gestione, scrive il Fatto Quotidiano, non solo per la gestione di questa vicenda, ma per tutta la vicenda di Roma, cioè per il Fatto Quotidiano questo è l'ultimo scandalo che coinvolge Roma. E Lidia Ravera è ormai questa di Schettino è diventata un po' anche inflazionata. 2 settimane fa era Schettino, adesso è Alemanno. Lidia Ravera sul Fatto Quotidiano, un primo cittadino che sembra Schettino. Vabbè, passiamo a un tema, quello della riforma del mercato del lavoro, che ha 2 aspetti, devo dire. L'aspetto più serio, più importante, è quello del tavolo che continua tra governo, parti sociali, con interviste, con posizioni, sull'articolo 18 che è sempre in primo piano. Ogni giorno c'è la domanda, come scrive Lina Palmerini sul Sole 24 Ore, pagina 7, ogni giorno Mario Monti deve rispondere a una domanda sull'articolo 18. Anche ieri, al termine dell'incontro con Miguel Angel Gurria, vale a dire il segretario dell'OCSE, è arrivata puntuale la domanda sull'articolo 18. Sul lavoro no a esasperazioni, dice Mario Monti. E vedete, d'altronde l'articolo 18 è sempre in primo piano. Susanna Camusso, leader della CGIL, fa un'intervista di 2 pagine sull'Unità, pagina 8 e 9, e dice la flessibilità è troppa, siamo pronti a discutere, ma non sull'articolo 18. Dall'altra parte, Libero titola così in prima pagina: coraggio, mandiamo a casa i fannulloni, basta articolo 18. Questo è il titolo dell'editoriale di Maurizio Belpietro, che scrive: ho provato a spiegare a mio cognato, un piccolo imprenditore svizzero, come funziona l'articolo 18, e man mano che illustravo il sistema, il quale rende più indissolubile di un matrimonio il vincolo tra azienda e dipendente, vedevo dipingersi sul suo viso lo stupore. Analoga sorpresa l'ho colta negli occhi di mia nipote, commessa di un grande magazzino nei dintorni di Zurigo, eppure quella del marito, caporeparto in una media azienda, l'altro nipote, scuoteva la testa. Tutti insieme non si capacitavano di come si possa far funzionare una fabbrica se chi ci lavora fa il bello e il cattivo tempo. Da noi uno così lo mandano a casa, è stato il commento finale. Insomma, Maurizio Belpietro, con questo basta articolo 18, va giù duro, ecco, su Libero, con questo editoriale dicendo togliamo questo articolo 18. Insomma, si ragiona un po' per steccati ideologici su questo articolo 18. E questo è l'aspetto più serio del tavolo sulla riforma del mercato del lavoro. Poi c'è quello delle battute. Oh, questi tecnici devono spiegare perché ogni tanto si lasciano andare a battute. C'è stata quella sulla monotonia del posto fisso, gli sfigati di Bardone, quelli che non si laureano entro 28 anni, Peter Bescapè, tanto per citarne uno, insomma, gli sfigati. E invece ora la Cancellieri, il ministro dell'interno Cancellieri, praticamente ha dato dei mammoni ai giovani italiani: volete il posto vicino a mamma e papà? Questo ha detto il ministro Cancellieri. Per la verità, oggi sull'Unità, pagina 11, il ministro Anna Maria Cancellieri fa un colloquio con Federica Fantozzi e esordisce così: ho usato una frase infelice, non intendevo mancare di rispetto, era un'esortazione ad abbandonare modelli di vita che non esistono più. Ragazzi, il mondo oggi vi chiede il massimo della competitività. Su questo si può anche seguirla, cioè su questo ha perfettamente ragione, cioè dice la cancelliera in questo colloquio con l'Unità: noi eravamo più fortunati come generazione, ci si chiedeva solo di studiare, laurearci, fare concorsi, c'erano posti pubblici, posti fissi, la vita tutto sommato era semplice, mentre con la globalizzazione oggi la concorrenza è esasperata, ai giovani si chiede flessibilità, disponibilità a spostarsi. Per questo si sono sentiti cornuti e mazziati, fa sapere Federica Fantozzi da questa sua battuta, senza lavoro, senza speranze, eppure trattati da rampolli viziati. Non è troppo? E la Cancellieri dice: è vero, ho usato una frase infelice che è suonata come mancanza di rispetto, non era mia intenzione. Ma guardi, le racconto un episodio. Un giovane molto bravo ha avuto un'ottima offerta all'estero, ma ha preferito restare in Sicilia e guadagnare 700 euro perché la moglie non voleva lasciare la famiglia. Mi ha fatto molta rabbia. Poi ho capito che ognuno fa le sue scelte, che l'indole segna la vita e che è meglio sia felice lì. Chi non vuole muoversi molto, in fondo, è più fragile. Insomma, quindi anche una chiusura impietosa da parte della Cancellieri. Che dice: mio padre lavorava in Libia, io sono cresciuta all'estero, non abbiamo mai avuto problemi a far la valigia, ora ai giovani la vita chiede di più. Mi dispiace che sia stata interpretata come giudizio negativo un'esortazione. Ragazzi, il mondo vi chiede serietà negli studi, preparazione e merito. Ecco, questo era il senso dell'intervento della Cancellieri, che però ha detto: siete dei mammoni. Tra l'altro, sia il Corriere della Sera sia Libero fanno notare che la figlia del ministro Elsa Fornero, non del ministro Cancellieri, ma del ministro Elsa Fornero, insegna nell'Ateneo dei genitori. Silvia De Aglio, figlia del ministro Elsa Fornero, e Mario De Aglio, che è un economista e un giornalista, ha 37 anni, è professore associato di genetica medica alla facoltà di medicina dell'Università di Torino, università dove insegnano mamma e papà, cioè il ministro Fornero e Mario De Aglio. Ecco, allora, è questa propensione alla battuta che anche Jacopo Iacoboni sulla Stampa scrive così: se la sindrome della battuta si impadronisce dei tecnici, sfigati, mammoni. Clini, ricordate, il ministro dell'ambiente, era ministro da 2 giorni, è andato a Un giorno da pecora su Radio 2 e ha detto: il nucleare è un'opzione. Poi a sera ha detto: no, non è più un'opzione. È una comunicazione da parte di questi tecnici che sembra fare autogol. Un po' meno battute, più sobrietà addirittura. Ebbene sì, più sobrietà. Intanto devo dire, c'è un sms di Damiano da Roma che voglio leggere per tornare alla questione di bisogna pagare l'esercito per pulire, che anche la protezione civile, ci fa sapere Damiano da Roma, ci ha fatto pagare, cioè si fa pagare per pulire un condominio privato. Ma io non, veramente, non so, magari è tutto normale, mi stupisco io, forse sono ingenuo io, forse è normale, bisogna pagare l'esercito per spalare la neve. Allora, la politica si interroga intanto sulla possibilità di inciucione, cioè l'inciucione tra PD e PDL. Libero appunto mette Bersani e Berlusconi a letto, ritratti insieme in un disegno ovviamente. C'è Bersani tra l'altro che è vestito con una canottierina da donna, fa la donna, Berlusconi invece fa l'uomo. Ecco, questo nella visione di Libero, con Libero che dice sì al patto col diavolo, cioè si può stare insieme. Oggi Bersani fa un'intervista invece su Repubblica, pagina 14, intervistato da Goffredo De Marchi, su un'intera pagina: dal 2013 basta governissimi, sceglieremo un nuovo premier e nascerà una coalizione diversa. Bersani che, vabbè, sul lavoro dice basta alle battute dei ministri. È vero che alcune dichiarazioni sembrano protrarre il dibattito ideologico degli ultimi anni, cioè del governo Berlusconi, e questo è un male. Sulla questione invece del futuro, beh, non parla molto della vicenda Lusi, della Margherita, di cui ci occuperemo anche noi alle 8.30, perché dice è una vicenda sulla quale il PD non sa nulla e non c'entra nulla. Per quel che riguarda invece, non parla della possibilità di fare... Non ci sono domande, insomma, sulla questione rapporto con Berlusconi, ecco. Questo è un po' strano. Berlusconi che invece fa interviste, si concentra con interviste, l'ha detto ieri, con quotidiani o settimanali stranieri. Si concentra sulla stampa estera, anche perché ha detto c'è stato un tentativo di screditarmi con la storia del bunga bunga all'estero e dunque farò una serie di interviste all'estero. Eccola qua. Il mensile americano The Atlantic l'ha intervistato e il giornale riporta a pagina 3 ampi stralci dell'intervista. Ho incontrato più ingrati opportunisti in politica che in qualunque precedente vita da imprenditore, ha detto Berlusconi, che poi fa anche un mea culpa, la colpa del fatto che è caduto il governo è mia e anche degli italiani. È colpa mia perché non sono stato capace di convincere il 51% degli italiani a votarmi. È colpa degli italiani quella di aver diviso il voto sparpagliando tra molti piccoli partiti e dunque sono stato costretto a fare coalizioni, siamo stati castrati da queste alleanze. Avete capito, Berlusconi che voleva ottenere il 51% dei voti. E poi parla appunto anche delle accuse, il bunga bunga, c'erano cene con tanti ospiti, certo c'era la confortante presenza estetica di belle ragazze, ma tutto normale. E poi non può non fare le battute, non sarebbe Berlusconi. Allora lei è stata vittima di uno stereotipo degli uomini italiani, certo io non sono un playboy ma sono un playman. E poi sorride e dice l'unica cosa della quale non sono stato accusato in tutto questo vortice di montature è di essere gay. Non ho nulla contro gli omosessuali, sia chiaro, anzi ho sempre pensato che più gay ci sono in giro, meno competizione c'è. Questo è Berlusconi che poi aggiunge sto scherzando ovviamente. Comunque la frase più importante, ho conosciuto più ingrati in politica che negli affari. E tra l'altro il giornale fa un'accusa molto dura pubblicando una lettera del capo della comunicazione, il Quirinale Pasquale Cascella, che risponde a un articolo di Renato Brunetta sul giornale per dire il famoso decreto con cui Berlusconi si voleva presentare a Cannes per il G20 poco prima di cadere dal governo non venne approvato dal Quirinale perché Napolitano incontrò Tremonti e Tremonti si mostrò contrario. Ecco la prova, è stato Tremonti a dare il colpo di grazia al Cavaliere, così titola oggi il giornale a pagina 2. Noi oggi invece ci concentreremo, giusto per chiudere, sulla questione dei finanziamenti ai partiti. C'è un libro in uscita di cui parleremo, è firmato Elio Veltri e Francesco Paola. C'è tutta la vicenda legata anche a Lusi, ex tesoriere della Margherita, che è stato espulso dal partito. Avete sentito il capo della commissione che ha deciso, vale a dire Luigi Berlinguer, il presidente del comitato di garanzia del PD. Lusi cacciato dal partito, ma Lusi non ci sta e avrebbe detto la vicenda del mostro, cioè che sarei io, è una favola comoda per molti. Che vuol dire? Che prima o poi parlerà tirando in ballo qualcun altro? Vi lascio con questo quesito.